vieta e non perdonano mai. Angeli dal cuore innevato non si sciolgono, tu capirai che quel gesto sbagliato e le frasi stonate non moriranno mai. Non son foglie cadute, disperse dal vento, solo ciò che pagherai, perché vogliono la tua anima, quel contratto firmato tanto tempo fa. In quel giorno incantato tu non eri là, a baciare il futuro, a sfiorare i suoi fianchi, dentro un mondo stregato che ogni istante svanirà. Perché tornano, non pensare che soffrono, si divertono con noi e non ci temono. Mi hanno uccisi milioni e non si pentono. Mari, il tuo stupore arruffato e quel gesto spaurito non sai quanto divertirà. È un dolore continuo in ogni istante nel tempo, certo non le annoierà. Perché vogliono la tua anima, perché hai amato e perduto senza dignità. Perché il tempo ci lascia e non ritornerà. I ricordi son sabbia che il mare confonde, ti rimane il suo sguardo che per sempre.